i conti, anche magari i conti che siamo abituati a fare col contesto sociale e anche con la tradizione, in questo caso poetica, culturale e poetica, provare a farci i conti in una base di calcolo diversa e per accorgersi che un po' tutto il mondo che siamo abituati a pensare e a dare per scontato è tale perché ci hanno insegnato a farci i conti in una base di calcolo, dando per scontato che fosse quella, diciamo, necessaria, senza dirci che, diciamo, che il mondo, diciamo, torna in un certo modo, ma perché torna in una determinata base di calcolo? Se cambi base di calcolo, il mondo poetico ti sconvolge, ti scardina completamente, non ti fa tornare più i conti, diciamo, almeno a livello di senso comune, e per come sono abituati a farli tornare. Ecco, quindi questo è il tentativo di fare i conti con la realtà storico-sociale cambiando. Anzi, 4 giorni sulla letteratura e stiamo trasmettendo adesso la presentazione Resistance Ensemble, libro di poesie di Edoardo Olmi, introdotto da Massimo Di Micco. Però in realtà siamo quasi a fine della presentazione, tra un po' passeremo alla prossima. Forno, 5:26. 21 febbraio, martedì, la gioventù rincasa, rincura, ribaltata a chiazze dal proprio carnevale, che domani ricomincia quello vero. Armati di risate d'ordinanza, sparando a vista sul piacere d'essere tristi. La gioia che ne sgorga senza chiedere il permesso. Io ci ho provato, giuro, a denunciare la violenza maschile sulle donne. Per medaglia ho ricevuto la violenza femminile sopra, sotto i maschi. Poi se mi dicono non vale la pena giocare per meno di 2.000 euro al mese, rispondo che un giorno è capitata la vita. È capitata la vita, no? Una scelta sempre per la vita, mettendo miccianamente la vita non in discussione, ma la vita alla base della discussione. E Jonathan, volevi dire qualcosa? Vada. Grazie, molto gentile. Beh, sì, allora anch'io come Marco ho il piacere di essere un amico intimo, e quando dico intimo intendo che dormiamo insieme. Beh, abbiamo dormito insieme comunque. Comunque, nel senso, ora sarò meno prolisso di Marco, cercherò di arrivare direttamente al punto. Ho il privilegio di lavorare con Edoardo da un anno più o meno a questa parte, però l'ho scoperto solamente leggendolo per bene. Tuggine, la tartaruga, sei tu. Senso che a vederti sei così pacifico, serafico o altri aggettivi, come dire, sinonimi. Però se vieni letto, si scopre un universo che si amplia ed esplode. C'è l'infinito potenziale nelle tue parole. Cioè, veramente mai stregato. Ma questo te l'ho detto di persona quando eravamo all'Elba e dormivamo insieme, no? Ti ricordo, sotto le stelle, la luna, il mare. Quanto romanticismo, quante poesie non sociali abbiamo scritto quelle notti. No, a parte gli scherzi, sono rimasto veramente sorpreso dalla differenza che ci sia nell'incontrarti così monolitico, quasi assente in mezzo alla folla, e questo è un pregio che ti riconosco, e invece di quanta passione tu abbia nelle tue parole, e oltre al fatto che sei presente nella realtà sociale, tu hai una forma contemporanea che però non trascura il bello stile, che tu possa dissacrare, come stavamo te stai dicendo, la tradizione, ma quello è normale, sei il figlio, proprio per confermare che non sono prolisso come l'amico Marco, ma tu Edoardo, da grande, cosa vuoi fare? Visto che c'è del potenziale in te. che vuoi fare da grande? Ammazza. Lo so, lo storico letterario di Jonathan Rizzo, no, non lo so. Che vuoi da grande? Forse lo so, la poesia serve proprio a non... A non porsi quei problemi che diciamo il fra virgolette mondo dei grandi, almeno per come è inteso in senso comune, ti richiede di porti, perché insomma sa che se ci si rimane impelagati diciamo in questo mondo, sicuramente non è per soldi o diciamo per fama, ma è sicuramente prima di tutto per passioni o comunque per quello che il senso comune definirebbe anche un po' di follia, cioè nel senso sembra un po' una cosa da matti, insomma, fare poesia oggi, cercare di farla to cure e soprattutto sembra matti che si possa, diciamo, come si dice, no, non I don't wanna grow up, però che si possa crescere in un orizzonte di senso totalmente diverso e opposto rispetto a quello che normalmente ci viene imposto e viene considerato come, diciamo così, senso comune dell'essere onesti cittadini. E riguardo a tutte le cose che dicevi, intanto grazie per le osservazioni che facevi, e mi viene in mente il fatto che tanti anche poeti che poi hanno avuto un'importanza a livello di storia letteraria, a quali io poi sicuramente non oso mettermi in mezzo, insomma, a questa diciamo contesto, insomma, storico letterario, però erano spesso gente molto presente sulla pagina, molto che magari cercava di appunto farsi sentire fortemente, no? Anche a livello di come tentativo di espressione di una personalità sulla pagina, poi magari nella vita quotidiana apparentemente era gente molto più sulle sue, insomma, o spesso molto meno mitica di quanto molte mitizzazioni anche a posteriori poi non facciano di vari personaggi, anche poeti importanti che poi finiscono sulle magliette o continuamente. E gli orizzonti di senso e i giochi di verità e quindi i linguaggi stessi ti induce, ecco, diciamo così, a della realtà, insomma, costruita proprio attraverso anche la pagina poetica. E per quanto riguarda gli aspetti stilistici, questo è un libro che lo considererò un po' come, non so se dire l'adolescenza poetica, un po', cioè un po' come quella fase in cui si fa un po' il grande balzo, no? Cioè in cui si sente che in poco tempo si deve ad ogni costo riuscire a fare un salto importante anche proprio oltre le forze in quel momento. Questa cosa riguarda poi anche un po' il gioco di avere il titolo, da un punto di vista di maturazione, in questo caso anche artistica, da cui gran 14 anni di revisione da un punto di vista che può essere stilistico, che può essere strutturale o destrutturale dei testi, che può essere proprio anche successivo nei testi stessi. E anche il primo libro ci sono anche delle scelte, delle sperimentazioni, non detto delle stilistiche, però anche a livello grafico, sia versificato che sulle grafiche all'interno dei testi e anche della, diciamo, punteggiatura o non punteggiatura, che non avevo ancora sperimentato questo libro in questo momento, e poi torneranno, non, diciamo, spero, insomma, successo a livello artistico. Sicuramente un libro anche sulla provare a fare un salto, diciamo, anche di maturazione, sobbarcarsi un po' di lavoro, ecco, come si fa in certe fasi, sobbarcarsene un po' per poi ritrovarselo anche successivamente, ecco. Sulla tela. Punk. Esistenza. Un filo tra le vette di due traumi. Vivere. quel trapezista in volo senza reti. Edoardo. Ringraziamo Francesca Sant'Angelo, Silvia Menchini per le letture, per l'interpretazione dei testi e le letture teatralizzate che abbiamo avuto il piacere, grazie a loro, di ascoltare. Grazie a tutti. E molte grazie a voi ancora. Fra pochissimo ci sarà la presentazione del quadrimestrale Zapruder, quindi sì, prendetevi una piccola pausa, ma ci vediamo fra pochissimo e a presto. Grazie. Radio e adesso a breve come ci introduce questa genere. Só que vai mudar. Onda do mar, maior temperatura subiu quando você caiu. Na minha mão, no meu cordão, meu coração se abriu. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio com você. Rio, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio com você. Too slimy, liable to make this piece, brother, turn grimy. I'ma leave it in the hands of the slum now. Take it away from where it comes from now. A lot of you cats in the music business, shiftless, I put you on the shit list. Did your intuition say this? It's the Uma shit for real till there's no more life. When you foul, motherfuckers, change your wrong to right. Make sure y'all bring the music to the area of flight. Hold tight. Hold tight. Hold tight. Hold tight. Your ass jack. What you did, yo? Hold tight. Your SV. What you did, yo? Man, I try my best not to hold a Smith & Wesson, man. But I gotta hold something, cause niggas test you, man. Anyway, yo, keep it moving, keep the questions, and maybe I can bless you with the test presses, man. Until then, hold tight, hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Can't enough, watch what you're doing. Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Yo, keeping it tight, tight. You don't understand, I've been doing this shit since the Grand Arraign. Now I'm on some old bank cash, by land. I'm out of this, cause you don't preach. Some nigga don't cry. It's alright, you can move at your own pace. All together now, hold tight, hold tight, hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wanda! Eccoci, eccoci qua. Tra poco inizia la presentazione di Pazza Idea, genere salute mentale controllo, dall'ultimo numero del quadrimestrale Zapruder. seconda presentazione della giornata al Festival di Letteratura Sociale. Presentiamo il 41esimo numero di Zafruder, che si intitola Pazza Idea, Genere, Salute Mentale e Controllo. E siamo qua con Alice Corte e Claudia Celentano, che hanno curato, poi vi spiegano in che forma, questo numero di questa rivista, che è all'interno del, diciamo, del movimento, parola generale, parola generica, che però esprime, almeno per quanto è emerso ieri, per quanto è emerso anche negli ultimi anni che abbiamo parlato di queste cose, cioè è un'esigenza sociale. Chiediamo a voi se volete introdurre un po' che cos'è questa rivista, perché in realtà perché siamo qua, è una rivista di studi storici comunque, quindi abbastanza di settore, però insomma, spieghiamo un po'. Sì, soprattutto, ma in realtà c'è anche... apro subito una parentesi, purtroppo sono molto avvezza alle parentesi, ha anche una rivista che si chiama Zap World, che è in inglese e che appunto mira quello che è stato appunto un momento abbastanza drammatico per i movimenti in Italia, e che però ha visto appunto una serie di storiche e storici riunirsi intorno a un progetto di appunto di narrazione. Oltre a fare questo, fa anche tutta una serie di altre attività, appunto la rivista inglese da un lato, e poi c'è anche uno dei momenti più importanti per storia e movimento in genere, che è pure come l'ho conosciuta io, perché cioè, ci sono veramente tanti dialoghi e momenti di incontro e scambio delle esperienze, che è appunto un momento in cui storiche e storici, ma anche non storiche e storici, questa è la cosa più importante, e condividono insomma le loro esperienze, le loro ricerche, eccetera, eccetera. Ovviamente detta così è molto semplificata, ci sta tutto un lavoro di un anno dietro. Quest'anno sarà dal 20 al 23 luglio sull'isola Polvese. Se volete venire, vi invito, perché è sempre un'esperienza. Ci si riunisce lì, negli anni si sono passate insomma diverse esperienze, però più o meno si è sempre stati intorno all'area Umbra e in particolare intorno al lago, e siamo ritornati insomma a fare questa esperienza proprio nel lago. Direi che poi magari ci ritorniamo sulla rivista in generale, su come arrivate poi a scrivere una cosa del genere. E partirei però, cioè non partirei perché siamo già partiti, ma continuerei presentando proprio dal simposio, nel senso che uno di questi dialoghi del simposio era stato curato da me e Luisa Renzo, mi pare solo noi, e appunto aveva già visto delle e da cui poi abbiamo pensato, perché non trarre un libro? Quindi con Ilaria La Fata e Lidia Martin ci siamo messe insieme, abbiamo iniziato a pensare a come cavare a parte, cioè nel tempo, a questo tema. E per esempio è molto interessante da questo punto di vista anche il contributo che ha dato sia al simposio, che poi è diventato un articolo, di Monica Bayet-Rond, che è Che diavolo di genere? Oltre alla sono stati adottati diversi approcci per la lettura della malattia mentale nel passato, questo ovviamente studiando nel suo caso le possedute che ovviamente per esempio fugoltianamente in chiave di resistenza rispetto a una società opprimente, oppure in chiave psicologica, quindi come appunto succubi in qualche modo di questa società, e quindi lei cerca di fare una proposta di avanzamento rispetto a questo. C'è stato questo dialogo, avevamo già messo insieme un po' di persone e poi abbiamo deciso di trarre questa rivista, e piano piano mettendoci insieme, lavorando appunto ai nostri contatti, quello che poteva essere, ripeto, la pazzia al femminile, come dire, cioè non tutta, perché non è tutto, ma molto spesso era così, e anche negli articoli che parlavano della pazzia in genere non era... Spesso c'era questa peculiarità del genere femminile, appunto, la psichiatrizzazione delle esperienze trans, ma in particolare la resistenza delle persone trans a questa psichiatrizzazione, e il fatto che non si siano volute mettere, appunto, sentir dare delle malate. Però, visto l'argomento, diciamo, le prospettive, cioè tu mi dici che alla fine la prospettiva di genere non era una prospettiva voluta di partenza, vi ci siete un po' trovate, tra l'altro, e quello che avevo studiato e su appunto l'internamento come momento in cui momento, cioè grande internamento e tutto il in che modo poi sono state collegate tra loro all'interno di questa prospettiva, cioè la prospettiva che Foucault appunto definisce come internamento, diciamo. Ah, l'internamento sicuramente però era comunque appunto con spesso un fattore religioso dietro, che poi si è andato perdendo ed è diventato completamente sociale. E quindi lo vediamo soprattutto nel contemporaneo. Io, visto che stavamo parlandone prima, e che sennò parlo proprio un articolo, l'articolo che ha scritto lei è proprio sull'archivio, quindi sulla impossibilità, diciamo, di accedere a queste fonti, o comunque la difficoltà che si trova nell'accedere a queste fonti, però stavamo giustamente parlando della... Sì, assolutamente parleremo dell'ex manicomio di San Salvi. Diciamo che l'internamento è la condizione fondamentale, che però nasce nell'Ottocento, quindi nasce con la nascita dell'istituzione, diciamo così, la vittima principale. Questo lo diceva anche Foucault, che tu prima hai citato, scrisse la sua tesi di laurea dedicandola proprio alla follia, quindi il libro che ha scritto dedicato alla follia era in realtà la sua tesi di laurea, era un giovane studente di particolarmente... avevano, che ne so, un bel atteggiamento, bastava che qualcuna rimanesse incinta e non fosse sposata, bastava che qualcuna trovasse il coraggio di esprimersi per quella che era, quindi anche soprattutto lesbiche, e usciva fuori dalla norma, dalle regole. Anche l'ospedale, l'ex ospedale psichiatrico di Firenze, nasce proprio con questa prospettiva, cioè quella di controllare e mettere a tacere, non potevano avere una famiglia che si occupasse di loro, tantissime donne lesbiche, donne che non avevano un marito e ma avevano un figlio. Quindi questo è, il San Salvi nasce proprio quando l'istituzione manicomiale, e lo dico sempre che noi ad oggi siamo l'unica nazione che non ha i manicomi, in tutto il resto del mondo queste istituzioni totali sono ancora presenti. E nasce come se fosse una piccola città, e per brutto intendo anche gli internati che c'erano dentro non potessero essere visti, e nasce per controllarli, nasce per curarli. Questo è quello che diceva sempre nell'Ottocento Chiaruggi, uno psichiatra dal quale simile al coma diabetico, e poi poco prima che la persona alla quale veniva somministrata questa iniezione stesse per morire, gli veniva somministrato lo zucchero per farlo riprendere. L'elettroshock, che è una pratica che ad oggi usiamo, perché io dico tra virgolette, perché in realtà erano delle violenze. All'interno del San Salvi, gli internati e le internate che erano separati hanno vissuto per moltissimo tempo in condizioni terrificanti. Basaglia, 8, venne promulgata la legge 180, cioè quella che attestò nel nostro paese la chiusura dei manicomi. A livello invece locale, vero, il manicomio qui a Firenze chiuse nel 1998. Che lavoravano nel manicomio e che erano diverse, erano create per risocializzare, venivano anche diciamo così svolti dei tirocini in modo che la persona potesse uscire fuori e avere una sua autonomia e la dignità. Qua davanti l'ho presa io per dare un'occhiata a delle cose che volevo aggiungere. Comunque sono molto belle le foto, appunto, soprattutto delle donne nel momento in cui Basaglia iniziò a lavorare a Trieste, quindi si vede proprio il cambiamento, diciamo, di carcere adesso. Il lavoro viene, in quel caso probabilmente non veniva proprio pagato, adesso è pagato pochissimo nel carcere, ripeto, appunto. Quindi queste istituzioni totali sono anche delle istituzioni, ovviamente. Un altro elemento che comunque intanto Zapruder in generale cerca di tenere presente è anche il fatto di non limitarsi all'Italia. In questo caso ci si è un po' limitati forse appunto all'Italia, e a parte appunto l'articolo sui marce fuori dai confini italiani, e poi ce n'è anche un altro sulla questione dei pazienti psichiatrici nelle colonie. Quindi per esempio il fatto che ci fossero degli studi razzisti. Su quello che accade anche oggi o comunque negli ultimi due decenni è successo alle persone che prima erano internate e che comunque... Tutte le persone che scrivono su Zapruder sono storiche, infatti Claudia è psicologa, no? E appunto si occupa in realtà di questi temi da un punto di vista lavorativo e sociale più che da un punto di vista di storia, per l'appunto. Una presunta pazzia del passato nelle donne possedute. E poi abbiamo appunto un articolo molto bello di Domizia Weber, che spero che appunto riesca ad arrivare a parlarcene, perché è veramente molto interessante, che parla del... iniziò a giudicare come pazze alcune donne, quindi come degradando la loro esperienza di appunto di... Che raccontavano di essere indemoniate, quindi degradati di Euripide tra crisi politica e marginalità sociale, che analizza la prospettiva della follia in una tragedia greca. E poi questo articolo che dicevo di Marianna Scarfone sulla questione coloniale in Libia. Ed è lei che si è occupata per prima delle donne che erano internate, per l'appunto. Lei è una psichiatra e in un'intervista, insomma, racconta... In un'intervista corredata da foto, quindi appunto quelle foto di cui vi parlavo dell'ospedale psichiatrico di Trieste, i baluardi, diciamo, dell'istituzione manicomiale, che erano appunto gli OPG. E, istituzione che però non è stata chiusa e che quindi ci riporta... Sì, però le stesse istituzioni manicomiali e di contenimento, quindi anche su questo insomma ci sarebbe da parlare a lungo. E tra le schegge, sempre per spiegarvi un po' com'è pure questa rivista, che sono gli articoli un po' più brevi, delle, appunto omogenee rispetto al resto della rivista, perché un'altra cosa che facciamo è cercare di non fare mai dei numeri diciamo puramente monotematici, anche perché insomma non a tutti potrebbe interessare che ha scritto Claudia. E poi, ritornando a come funziona questa rivista, un incantiere. L'incantiere sono invece le ricerche in corso, appunto. E in questo caso è sulle donne del manicomio, sulle dei manicomi con le donne. E poi abbiamo, sempre sull'oggi, un'intervista molto molto molto bella, che è a Oltre il Giardino, un progetto che invece... di rivista anche questo, che vi approccio che invece è più di sociale e appunto di miglioramento delle condizioni. Abbiamo poi per storia di classe Monica De Cas, che ci parla delle esperienze sul campo nella scuola italiana di Barcellona per quanto riguarda è stata che i disoccupati, che a volte sono stati definiti oziosi, sporchi e cattivi, spesso hanno avuto lo stesso trattamento delle persone psichiatrizzate o che sono stati considerati pazzi. Quindi anche qua c'è una parte appunto occupato, in parte rivisitato, quindi ci sono delle ASL, c'è un museo e non so, su questo magari ci dici tu che sei di zona. Sì, in realtà appunto tesi anche soltanto sul fatto che esistano o non esistono i manicomi in altri paesi sia europei che extraeuropei e quali sono poi anche i criteri di internamento, nel senso che abbiamo visto